In questo momento il corteo si sta muovendo da Piazza Vittorio e ci stiamo spostando verso Piazza della Repubblica. Ci eravamo fermati in Piazza Vittorio dopo aver fatto i blocchi questa mattina nel quartiere San Lorenzo. Noi come disobbedienti di Bologna abbiamo partecipato al blocco organizzato davanti all'Università della Sapienza. La mattinata è trascorsa in maniera molto tranquilla. Tutto il quartiere è stato attraversato da questo corteo estremamente pacifico e molto colorato, e niente, poi ci siamo fermati a Piazza Vittorio, dove ci siamo riuniti con altri spezzoni che avevano organizzato altri blocchi nella città, e niente, adesso stiamo ripartendo e alle 4 poi confluiremo nel corteo principale. Ci sono molte forze dell'ordine, c'è molta polizia? Dunque, fino a questo momento la polizia è stata abbastanza defilata, non abbiamo visto particolari movimenti. Ecco, solo proprio in questa fase abbiamo visto i primi reparti che si sono allineati ai lati del corteo, però molto distanti per adesso, quindi evidentemente mi sembra di capire che venga mantenuta la linea di quasi trasparenza che come è stata tenuta questa mattina, quindi direi che la loro assenza ha garantito estrema calma per adesso, poi non lo so.